l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, power, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Pubblicato sul blog Global Project il 16 gennaio ed il titolo è Per un comune incarnato, considerazioni attuali sul femminismo, Anna Simone e Federica Giardini. Anna Simone è Buonasera a tutte, oggi leggeremo un articolo che affronta alcuni temi del femminismo contemporaneo. L'articolo è stato pubblicato sul blog Global Project il 16 gennaio e il titolo è Per un comune incarnato, considerazioni attuali sul femminismo di Anna Simone e Federica Giardini. Due parole sulle autrici. Anna Simone è sociologa, insegna presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, svolge ricerche prevalentemente nell'ambito della sociologia e dell'antropologia del diritto, ha scritto Divenire sans papier, sociologia dei dissensi metropolitani nel 2002, per la Manifesto Libri ha curato Noi cittadini d'Europa di Etienne Balibar ed è tra le curatrici del lessico di biopolitica, collabora e scrive su varie riviste, tra cui Sociologia del diritto e Antigone. È anche autrice di I corpi del reato, sessualità e sicurezza nella società del rischio della mimesis del 2010. Federica Giardini invece è docente di filosofia politica presso l'Università Roma III, redattrice della rivista di WF dal 1996 e di European Journal of Women's Studies dal 2000 al 2011, collabora con Diotima, la comunità filosofica femminile, e con la Società delle Letterate ed è nel comitato direttivo dell'OIAP. IAF, l'Associazione Internazionale di Filosofia, nel 2006 ha organizzato il 12° Simposio Internazionale di Filosofia proprio per lo IAF. My skin is brown. My hair is platinum blonde today. Burgundy tomorrow. My nails is long. I know no sorrow cause. Ain't nothing I care to know, but wear my check so I can get my ticks for the Jay-Z show. And I do aspire to be a video holder, and I know Popeye got shot last night, but that's how it go in the ghetto. In the ghetto, what do they call me? Read the tattoo on the left breast. My name is Lexus. Yeah, girl. My name is the last day I would ever see. Ma and Pa would never know the woman I would grow up to be. I was an involuntary offering for humanity. Why did they hate me? Why they hate me so, so, so? What do they call me? This woman, this lunch and home mistake and love make a double shift worker, sometimes warrior, sometimes weak. This wife, this single soldier, God-given, God-fearing, God-doubting, this bearer of wisdom and fruit and pain, this once girl, sometimes still. Saint, sinner, teacher, multitasker, friend, this everyday wonder, this woman, this nation builder, this raiser of leaders, of losers, of babies, of boys who will become men, girls who will become women, this woman. Some call me mama. Hey mama. Hey mama. Hey mama. Is electric, I am ablaze, I am the source. I can feed you or starve you, breathe life into you or bleed you. I can fuck you or love you. I don't care how they call me, I know who I is. Call me crazy, divine, Ma'at, true honey bun, supreme pontifica, electric lady, holy prostitute. I don't care what you call me. Dunque, leggeremo adesso l'articolo e poi sentiremo una delle autrici, Anna Simone, che ce ne parlerà. Prego. Leggendo il testo apparso su Micromega, che accosta Luca Casarini e Francesca Comencini, esponente di Se non ora quando, abbiamo pensato che fosse utile fare il punto sul femminismo contemporaneo, in particolare quello vicino a Uniti per l'Alternativa. Per esplicitare meglio il lavorio paziente e quotidiano di molte donne nel movimento e per tornare sui temi che lo attraversano e sulla necessità di leggere la complessità di un'epoca in frantumi come la nostra. Il primo punto, con l'auspicio che sia un rilancio di riflessione, ma soprattutto di pratiche, riguarda la sensazione che assai spesso il lavoro comune tra uomini e donne nei movimenti si produca a partire da una strana divisione del lavoro politico-intellettuale. Anziché puntare proprio sulla relazione, quale prima pratica costituente del comune, si ritrova spesso una sorta di quota di genere nelle azioni e nelle analisi. Da una parte il corpo, la violenza, la riproduzione, forse anche l'immigrazione. Dall'altra invece le analisi su grande scala della crisi, declinata in tutte le sue specifiche, economia, lavoro, sovranità, rappresentanza, quasi che tra i due piani non vi fosse un potenziamento da cogliere. Al fondo è una vecchia canzone. Tornano in mente i dibattiti del PCI anni 50 o quelli di Lotta Continua. Le questioni femminili, da una parte, e la politica su grande scala dall'altra. Proviamo a cambiare musica. Si può fare immaginando gesti precisi e concreti, quelli che compongono la pratica di relazione, per l'appunto. Che cosa significherà mai questo lemma femminista? Significa leggere quanto scrivono le compagne e lavorare di traduzione e di connessione. Significa aprire gli occhi e le orecchie e vedere e ascoltare le mille e una iniziative, azioni che costruiscono e prenderle e come riferimenti per la messa in parola e per le analisi. Semplice, no? Molto, moltissimo è stato agito, detto e scritto da donne sulla riorganizzazione del lavoro, tra produzione e riproduzione, sulla cittadinanza, sui diritti e sulla rappresentanza, sulle nuove forme di governamentalità attraverso l'inclusione del genere femminile, sulle nuove forme del controllo sociale, sulla produzione di norme, sul potere, sulla riorganizzazione dei saperi, sui beni comuni. C'è già tutto per fare e pensare una nuova politica, davvero alternativa, non solo per una parte, ma per tutti. Il secondo punto è allora registrare una buona volta che il femminismo è un pensiero per tutti e tutte, non solo per le donne. Ecco qualche esempio. Le lotte contro la legge Tarsia sui consultori dicono molto sulla riappropriazione e sulla riqualificazione del pubblico, oltre che sui beni comuni. Mille altre azioni, come quelle contro i nuovi dispositivi di sicurezza, il controllo sociale e le analisi critiche sui processi di femminilizzazione della produzione e del lavoro e sulla nascita di nuovi status identitari che costruiscono, oggettivandolo, il fattore D, mettendolo al lavoro per produrre valore solo attraverso lo sfruttamento del capitalismo contemporaneo, potenziano ed espandono le analisi sulle biopolitiche del corpo e sugli effetti antropogenetici della crisi. In questi anni abbiamo prodotto questo e molto altro e certamente non abbiamo avuto bisogno di Berlusconi per riscoprire chissà quale dignità perduta, né tantomeno riteniamo utile tornare alle vecchie logiche che oscillano tra l'autovittimizzazione e la richiesta di tutele. Per noi esserci significa dare risposte, produrre invenzioni a contrasto con le riorganizzazioni operate dal neoliberismo e dalla sua crisi, interrogarci sulle forme di vita. Le azioni e le analisi concernenti le nuove retoriche sulla riproduzione e il nesso lavoro-cittadinanza sono un pozzo senza fondo di idee, di invenzioni già agite per tutti e tutte. Poured forth from women. unworthy. You are original woman, revered and feared. Love and praises to you, love and praises. Un altro esempio, allora. Le forme di organizzazione di molte occupazioni del presente, dal Teatro Valle all'ex Cinema Palazzo, in cui ci sono molte donne, nonché innumerevoli collettivi femministi nati a ridosso della grande manifestazione del 2007, all'indomani dell'omicidio di Giovanna Reggiani, poi dall'Onda sino a Uniti per l'Alternativa, parlano di una politica in cui si fa relazione e si costruisce politica come esperienza. Parlano già di una politica che si lascia dietro pulsioni egemoniche, leaderistiche, rappresentative e prefigurano nuove istituzioni del comune, desideri federativi basati proprio sulla relazione, anche conflittuale. E ancora, è possibile raccontare la crisi senza tener conto dei rovesci che essa produce sulle forme di vita e sulla vita del corpo? L'aumento esponenziale del tasso di suicidi, l'aumento della vendita di psicofarmaci e delle patologie legate ad ansia, paura, depressione, non sono forse l'esito diretto del fallimento del modello neoliberista che a sua volta attraversa il quasi ventennio berlusconiano e arriva sino alla tecnocrazia targata Monti? Non si tratta, lo ribadiamo, di costruire pensieri e pratiche di parte, o che costituiscono il margine di dotti discorsi sulla tecnocrazia contemporanea o delle infinite disquisizioni sui famosi cicli di lotte, ma di pensarne uno a tutto tondo in cui appunto il corpo non diventa solo quello che fanno le donne. Cari compagni, le analisi su grande scala, i nuovi universali, oggi si costruiscono così, sapendo prendere dove c'è da prendere, sapendo vedere, ascoltare. E magari sarebbe davvero l'ora rilanciare su un piano decisamente materiale. Oggi più che mai la sindrome da frammentazione e la relativa costruzione posticcia di status, il precario precaria contro il garantito garantita, costituisce un esempio paradigmatico, ci parla anche di una frammentazione dei diritti, oltre che di un alto tasso di conflittualità, presente persino in composizioni sociali molto simili. Tutto ciò si ripercuote anche nei movimenti e nella loro composizione populista, identitaria, così come è avvenuto in relazione alle pulsioni anti-berlusconiane, momento in cui nasce anche se non ora quando. La nostra idea di femminismo, invece, ha ben presenti i rischi della frammentazione e del differenzialismo, sapientemente tradotto dai modelli di governance e di marketing. Siamo certe che la grande posta in gioco del femminismo contemporaneo non si situa affatto dalla parte della rivendicazione di un riconoscimento del nostro essere donne, come fa se non ora quando, ma sulla necessità di inventare nuovi universali incarnati, degli universali cioè che si collocano su un piano radicalmente diverso dall'universalismo classico. È già una realtà, ma solo se tutti ci decidiamo a dare corpo alle relazioni, alle analisi, se ci interroghiamo sulle pratiche a partire dalla nostra esperienza. Carla Lonzi molti anni fa suggeriva di muoversi su un altro piano. Il piano adesso c'è, è quello del dare corpo al comune. Please. Come sit down. I need to set you straight. before we go any further. I've learned from loneliness that lonely can be bitter and lonely can be sweet. Sure, I know I don't need a man to be complete. And I also know that what I want and what I need don't always meet. But being alone ain't all that bad. 'Cause see, I've been there and I've done that. I'm in the midst of an evolution of myself. I was tired of the search, so I had to sit it on the shelf. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. My soul's music, my life beat. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. My soul's music, my life beat. Lonely can be sweet. I had been looking for my cowboy, like that girl says in that song. Where have all the cowboys gone? In my former life, my once cowboys have gone hoochie hopping and car shopping, riding their eagles like wild horses on collision courses with their machismo, while I slow slaughtered as their valor and virtue drowned in deep water, deep water. So I've decided to chill with me for the moment and play my own violins and strike my own candlelight. So every night is my night. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. My soul's music, my life beat. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. My soul's music, my life beat. Lonely can be sweet. Are you listening? To think that the moon's name might as well have been lonely. Now I sip my night full like it were blackberry marsala, then lick the excess off my lips so as not to waste one drop of its sweetness. I satisfy my wanderlust with the wildness of the night and the comfort of myself. I've taken up hedonism as a hobby and have made it harder for the next man to step into my life without a plan for how to please me better than I please myself. So if you've come without a plan, then make a swift retreat, 'cause lonely can be sweet. Adesso faremo, come vi avevamo anticipato, alcune domande ad Anna Simone, una delle autrici dell'articolo. Anna, ci sei? Ci senti? Sì, sì, vi sento abbastanza bene. Buonasera a tutte e a tutti. Ok, senti, allora, noi abbiamo trovato, come già ti abbiamo detto, l'articolo molto interessante perché c'entra, diciamo, il discorso sul corpo, sul dare corpo alle pratiche politiche, all'esperienza. Ci potresti spiegare meglio che cosa vuol dire dare corpo al comune e come appunto può delinearsi, secondo anche quanto avete scritto, quanto pensate, una nuova politica femminista che si basi su questi presupposti? Allora, dare corpo al comune è sostanzialmente, come dire, un termine sintetico di quanto avevamo scritto precedentemente, diciamo, dare corpo al comune e la sintesi delle problematiche esposte nell'articolo, così come voi avete letto in trasmissione. Che cosa vuol dire? Ma intanto diciamo siamo abbastanza, non so come dire, quasi stanche, no? del vivere il femminismo come un'esperienza che si colloca solo ed esclusivamente all'interno della produzione discorsiva dell'identità di genere, no? Noi riteniamo che il femminismo sia una pratica e un pensiero politico che possa parlare a tutti e a tutte. Ora, dare corpo al comune che cosa vuol dire? Vuol dire provare a praticare, a pensare una politica che non escluda il corpo, quindi l'esperienza, no? Come forma materiale, come pratica, dalla produzione dei discorsi legati alla politica. Tutto questo, diciamo, ha una sua storia, una sua genealogia, che è molto diversa, insomma, dall'idea di pensare il femminismo come quota di genere all'interno di un pensiero universale maschile, no? Faccio l'esempio classico, è quello del pensiero rivoluzionario novecentesco di stampo marxista o socialista, nel quale anch'io mi sono formata. E però quello è un pensiero che, per quanto condivisibile, è stato prodotto, costruito e pensato da un maschile, e all'interno di quel pensiero lì poi viene agito anche, come dire, un pensiero e una pratica rivoluzionarie di tipo però femminista, no, femminile. Ecco, noi pensiamo l'esatto contrario. Dare corpo al comune significa per noi partire dall'insegnamento di Carla Lonzin, studiamo su Hegel. Cioè, che cosa diceva Carla Lonzi? Diceva che per poter produrre un pensiero completamente diverso dall'idea dell'universalismo maschile, novecentesco, rivoluzionario, eccetera, eccetera, bisognava produrre innanzitutto un taglio, cioè una cesura relativa al fatto che determinati discorsi, per l'appunto rivoluzionari, socialisti, comunisti, eccetera, nascevano non a partire da un'esigenza reale, materiale, esperienziale, ma a partire da un discorso che poi veniva replicato, prodotto, straprodotto. Faccio un esempio: Lotta Continua negli anni 70, no? Nel momento in cui nasce il movimento femminista all'interno di Lotta Continua, si crea immediatamente una cesura tra i due movimenti, cioè tra il maschile e il femminile. I maschi di Lotta Continua pensano che le femministe non siano sufficientemente rivoluzionarie perché aggrediscono quella forma di pensare, di praticare la politica, cioè quel sapere astratto, solo detto, che provoca continue scissioni tra ciò che io dico e ciò che sono, ciò che faccio, eccetera, eccetera. E addirittura si crea quell'episodio, no, abbastanza surreale, per cui i maschi di Lotta Continua aspettarono le loro compagne femministe in un angolo di una strada di Roma e le picchiarono, no? Allora, per noi è l'esatto opposto, cioè partire dalla Lonzi, dal taglio, e provare oggi a generare un nuovo salto. Il salto è fare in modo che i maschi, i nostri compagni, comprendano la potenza di un discorso politico altrettanto rivoluzionario, altrettanto forte, altrettanto in grado di produrre comune, comunanza, ma non sulla base di un discorso astratto, solo ed esclusivamente sulla base di una sorta di etica della relazione, che non è ovviamente un discorso buonista, eccetera, eccetera, ma è appunto quella capacità che noi possiamo oggi mettere in campo del produrre politica a partire dal corpo. Cioè, il corpo non è un'entità astratta, il corpo si manifesta ogni giorno attraverso l'esplicitazione di bisogni reali e materiali che hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, con il nostro desiderio, con il problema relativo al lavoro, alla precarietà in primo luogo, eccetera, eccetera. E quindi deve essere il corpo a parlare, non il corpo a parlare sulla base, no, di un'introiezione dogmatica che è stata sempre solo generata dagli uomini e che poi di fatto nella storia non ha prodotto nulla, insomma, perché se siamo ancora in queste condizioni, evidentemente quell'universale così astratto, così prodotto sulla base di un discorso ideologico non incarnato non deve avere poi tanto cambiato la vita reale delle persone se ci ritroviamo oggi, diciamo, in queste condizioni. Quindi, diciamo, per un comune incarnato è un po' questo, no? Anziché partire da un pensiero maschile e collocare in questo pensiero maschile una quota di genere, quindi un femminile di un maschile, proviamo per la prima volta forse, adesso non so se questo sarà possibile, ma insomma il tentativo è un po' questo, proviamo certo. invece a rovesciare completamente la cosa e a dire ai nostri compagni maschi forse dovresti imparare da noi, no? Per evitare di riprodurre discorsi che si basano sulla scissione tra ciò che io sono e ciò che dico e ciò che faccio, insomma. Certo. Senti, sulla base di tutte queste, di tutto questo, diciamo, sono Maria Grazia, ti sto facendo io la domanda sì. adesso. E, in che ti posso termini? Chiedere se puoi alzare un po' la voce perché non ti sento. Non mi senti. Bene. Adesso? Adesso va meglio. Ok. Sì. In che termini, quindi, secondo te oggi possiamo parlare di femminismo, cioè di movimento femminista? C'è la possibilità di metterci insieme in qualche modo e di creare un movimento insomma unico, unico no, insomma, però forte. Ma sì, io sono sempre stata una convinta assertrice del fatto che oggi il femminismo non si può declinare al singolare, ma possiamo parlare certo. di femminismi, cioè nel senso che appunto sono tante sì, sì, assolutamente. Ormai di riferimento, proprio perché quel blocco monolitico che esisteva, no, fino alla fine degli anni 70, o emancipazionismo o pensiero della differenza o pensiero rivoluzionario comunista, un po' è venuto a mancare, quantomeno si è sciolto, no, nella molteplicità dei femminismi che abbiamo oggi, proprio perché sono anche cambiate le condizioni, nonché le contingenze storico-sociali alle quali facciamo riferimento, no? La precarietà ha spostato completamente rispetto alle vecchie analisi sui modi di produzione fordisti, eccetera, eccetera, e del capitalismo legato ai processi di industrializzazione, l'arrivo degli immigrati nel nostro paese ci ha spostate verso uno sguardo di carattere postcoloniale, insomma sono cambiate le condizioni storico-politiche e storico-culturali per cui il femminismo non risponde più a quei tre criteri originari, ma si è parecchio frammentato, no? in vari rivoli di riferimento. Sì, credo che intanto appunto possiamo parlare di femminismi, certo. però secondo me anche qui va fatto un salto ulteriore, nel senso che c'è bisogno probabilmente di costruire, di pensare un momento nazionale, ma anche internazionale, in cui potersi confrontare. Dico questo perché, insomma, per quanto mi riguarda, l'anno scorso io ho girato moltissimo per discutere uno dei miei libri, I corpi del reato, sì. e ho incontrato tantissimi collettivi di ragazze molto giovani, anche meno giovani, e quindi c'è un fermento molto forte, no? Però certo. spesso questo fermento, come dire, non riesce a costruire potenza comune esatto. perché è collocato nei singoli spazi generali, che ne so, il movimento studentesco piuttosto che un'altra area politica di movimento, eccetera, eccetera. E quindi si finisce con il parlarsi abbastanza poco, e pur condividendo, come dire, gran parte delle cose che in qualche modo attanagliano il nostro presente. Quindi io penso che bisogna rispettare l'idea per cui, diciamo, il femminismo non è un blocco monolitico, ma è uno stile plurale, no? di partecipazione politica. E di messa in campo di discorsi e di pratiche. E però al contempo probabilmente bisognerebbe anche qui provare a fare un salto di comunanza ulteriore, no? Creare magari uno spazio in cui potersi confrontare, in cui potersi sentire probabilmente meno sole, no? Parlo dei singoli collettivi. Quindi insomma credo che anche qui andrebbe fatto, ecco, un lavoro di costruzione del comune. Certo, mm-hmm. non è facile, no, non infatti. Conto, perché poi appunto le appartenenze, come dire, quelle originarie, specie se parliamo di doppia militanza, no? Quello stile politico, per cui tendenzialmente si sta all'interno di un movimento maschile, contemporaneamente si pratica il femminismo all'interno di quel target, di quel movimento, diventa complicato, lo so per esperienza, insomma, avendo partecipato a diverse assemblee, riunioni, certo. Però credo che oggi il femminismo possa diventare davvero un piano di discussione universale, no? Senza sì. autorelegarsi. Certo. Bisogna un po' educarli questi compagni ad ascoltarci, ecco. Non è sempre facile, devo dire. Però io credo che ci siano le possibilità in questo momento, perché di femminismo ormai parlano tutte, certo, appunto bisogna evitare quella cosa terribile della quota di genere, però insomma spetta a noi fare in modo che questo non avvenga. Sì. Io faccio sempre un esempio molto, molto chiaro e concreto rispetto a questo, no? Perché noi ci siamo sorbite seminari su seminari, conferenze su conferenze di tutti questi leader maschi, narcisisti, carismatici, e non avviene il contrario, quasi sì. mai, perché il femminismo da questo punto di vista, come dire, a volte si autorelega, no? Si autocostruisce una quota all'interno di un pensiero universale. Ecco, questa cosa qui secondo me va scardinata. Guarda Anna, io sicuramente, no, mi stavo domandando adesso che parlavi appunto di questo, sicuramente va scardinata questa cosa, però come riusciamo poi a portare il femminismo anche al di fuori? Perché poi alla fine, essendo comunque un movimento che ha riflettuto sulla condizione delle donne, in un altro articolo appunto che ho letto parlavate dei diversi femminismi, quindi del femminismo della differenza, del femminismo dell'uguaglianza, ok, però non è mai entrato di fatto a pieno titolo, non si è mai radicato nella società. Pensare a come si possa radicare nella società vuol dire includere anche gli uomini, cioè includere uno sguardo che includa anche gli uomini. Questo è molto difficile. In alcuni paesi si sta facendo, negli Stati Uniti ci sono delle organizzazioni come la NAO, ci sono anche uomini all'interno. Come si può fare quindi considerando che poi quella dovrebbe, non è che quella dovrebbe essere il punto di arrivo, però insomma bisogna cominciarsi a porre anche questa questione. Tu come la vedi da questo punto di vista? Ma guarda, io ti risponderò a partire dalle mie pratiche. Sì. Cioè, cosa faccio io quando mi trovo in una situazione in cui mi sento sovradeterminata da un pensiero maschile che mi fa parlare solo nella misura in cui io recito la parte di me stessa in qualità di donna? Beh, il primo gesto che io compio è proprio quello di decostruire e scardinare il suo di discorso, no? Per mostrargli quanto in effetti poi alla fine sia astratto. E la metto sempre sul piano della relazione, no? Cioè, laddove c'è relazione, cioè c'è scambio reale, allora c'è anche la possibilità, no, di poter produrre qualcosa che non, come dire, che sposti gli ordini discorsivi. Quando questo non avviene, ovviamente questi ordini discorsivi non si scardinano mai. È un lavoro paziente, un lavoro difficile, soprattutto è un lavoro che ogni giorno ti mette dinanzi alla logica del conflitto. Peraltro io non sono affatto convinta che la relazione non sia conflitto, anzi penso che la relazione debba essere anche conflitto. E però l'alternativa qual è? Quella che noi continuiamo appunto a raccontarci, no? Cioè io sto bene con le donne, sto sempre meglio con le donne alla fine, tutto quello che faccio lo faccio nella gran parte dei casi con le donne. Però, come dire, nelle pratiche comuni probabilmente il gesto di scarto è quello di cominciare a relativizzare questi discorsi astratti, questo dire che non va da nessuna parte. Poi io credo anche che molti uomini in realtà stiamo cambiando rispetto a questo, cioè nel senso che hanno un interesse nei confronti, almeno i miei compagni ce l'hanno, hanno un interesse nei confronti di quello che per l'appunto viene prodotto dal pensiero femminista. Bisogna fare in modo che il pensiero femminista sia un pensiero che parli a tutti. Faccio un esempio, no? Angela Davis è una femminista ed è anche una nera, no? Sì. Ma la potenza del discorso di Angela Davis non sta soltanto nel fatto che lei sia femminista e sia nera. La potenza del discorso e della pratica politica di Angela Davis adesso sta all'interno di un altro percorso, di un altro meccanismo, che è quello del riuscire a parlare a tutti, non a partire dal fatto che femmina è nera, ma a partire dal fatto che lei, per esempio, si è spesa moltissimo contro le carceri, no? Contro l'istituzione carceraria negli Stati Uniti. Recentemente si è spesa moltissimo all'interno del movimento Occupy Wall Street, no? E sì, non l'ha fatto a partire dalla determinazione di una identità, no? L'ha fatto in un altro modo, cioè la posta in gioco politica è il fare le cose insieme in un altro modo. E il modo qual è? Sempre quello appunto dell'uso di un linguaggio decolonizzato, di una, come dire, di una messa in ascolto, di un processo di decostruzione della fuffa che ci circonda continuamente, no? Di questi grandi discorsi che poi non portano mai a niente. Quindi anche per esempio, no, noi citavamo nell'articolo l'esperienza del Teatro Valle. Nel Teatro Valle ci sono moltissime donne e io ho assistito ad alcune assemblee, per esempio rispetto a come vengono a volte colonizzate da alcuni piccoli intellettuali romani eccetera eccetera. Ecco, le donne riescono in qualche modo a capire immediatamente quando una parola, un discorso non produce nulla e quando invece produce comune, quindi salto, scardinamento. Ed è già nella loro pratica questa cosa, non so come dire, no? Cioè nel parlare, nel modo di fare le cose, nel modo di pensare la politica, nel modo di occupare un luogo, c'è già uno scarto e una differenza. E quindi anziché, come dire, probabilmente autonominarci, probabilmente lo scarto ulteriore è questo, no? Cioè fare direttamente le cose, perché tanto comunque le facciamo in un altro modo rispetto a come va le fanno bene loro, no? Dunque, il ma tempo è quasi finito purtroppo. E noi innanzitutto ti ringraziamo, magari insomma avremo modo di parlare anche altre volte, spero, soprattutto delle relazioni tra donne, che è la cosa che a me personalmente insomma mi interessa tantissimo, perché non ho l'idea che non siano poi così idilliaci i rapporti tra donne, per cui credo sia necessario andare a fondo anche da quel punto di vista, necessariamente. Ma questo, sai, è indicativo, i rapporti non sono idilliaci tra donne per la stessa ragione di cui parlavo prima, perché non è l'identità che fa la relazione. E quindi bisogna, cioè, non è ragionare forse sul ad un qualcosa che fa la relazione. La relazione è la pratica politica, che non è la produzione di un discorso astratto, vorrei ma non posso, no? Detto in sintesi. E quella cosa per cui appunto nel momento in cui io parlo con te mi devo, non posso che relativizzarmi. E quello spazio terzo che si produce tra me e te è quella cosa che si chiama relazione, che produce un'altra cosa, no? Proprio certo, uno scarto, un andare da un'altra parte. Questo è molto difficile, perché poi tutte quante noi alla fine, siccome ci autodeterminiamo sempre a partire da un'identità, un'appartenenza eccetera eccetera, a volte ci ritroviamo convocate in tante e però cominciamo a dire, ah, tu vieni di lì, allora pensi questo, tu vieni lì. Certo. Tra l'altro è una cosa che io rifiuto, perché io ovviamente sono vicina a dei movimenti piuttosto che a degli altri, eccetera, però l'essere vicina per me non vuol dire abbandonare lo spirito critico e la capacità assolutamente. Di lucidità. Certo, no, anche insomma noi riteniamo assolutamente importante e fondamentale ormai iniziare a ragionare su quelle che possono essere, visto che comunque la voglia di fare insieme c'è, perché quella c'è, ragionare su altri criteri di appartenenza. Questo è una necessità che penso sia comune a molte, credo almeno, insomma, me lo auguro, ecco, mi auguro che sia così. Sì, me lo auguro anch'io, perché noi ci abbiamo provato, poi siamo contente, insomma, che questo articolo abbia suscitato un buon dibattito, ci sono stati poi anche degli esiti, quindi ci fa piacere. Ci abbiamo provato, poi è ovvio che, come dire, è tutto molto difficile, come sempre, però certo. Intanto bisogna, no, avere coraggio di rischiare, di andare in una direzione un po' più vasta, più complessa, certo. Perché altrimenti si rischia poi di rimanere sempre lì, chiusa nel proprio alveo a raccontarci un pochino, va bene. Poi va bene anche quello, sì, però sì, ma certo. Forse è arrivato il momento di provare a rompere. Tra l'altro Judith Butler, che è una sì. autrice che amo moltissimo, insomma, oltre alla Lonzi eccetera, no? Sì. Anche lei ha compiuto un gesto di questo tipo, dopo aver scritto i suoi primi libri sul corpo, sul queer, eccetera, eccetera, sì. Poi ha cominciato a parlare d'altro, ma non a parlare certo. d'altro, a parlare d'altro in un altro modo, sì. per esempio a parlare della precarietà in un altro modo, a parlare dell'11 settembre in un altro modo, no? E quindi è probabilmente quell'altro modo che va costruito insieme, che va cementificato. Ascolta, noi purtroppo dobbiamo interromperci perché, come ti dicevo, il tempo è sì. quasi terminato. Sì, no, scusatemi, io sono un po' lavorata. No, ti preoccupare. ti ringraziamo e ci sentiamo un'altra volta. Speriamo vabbè. Presto. Volentieri, grazie. Grazie Anna. A te. Grazie a te. Ciao. Ciao. Quindi adesso un breve nostro commento, diciamo, a questo all'articolo. Dunque, il corpo e la relazione quindi sono i temi centrali. Gli elementi che insomma più interessanti su cui sarebbe importante iniziare una riflessione. Dicevamo è appunto, diceva l'articolo, insomma, è il, e noi concordiamo, il tema della demarcazione fra i grandi temi del mondo e le questioni che riguardano invece le donne, che sembrano costituire un mondo a sé stante, una sezione a sé stante, senza una connessione con il mondo. Eppure questa separazione fra donne e mondo è stata sanata da tante donne che da diversi punti di vista hanno detto e scritto sul potere, sulla cittadinanza, sulle parole, sui discorsi, sul sapere, e hanno delineato dei percorsi davvero alternativi e nuovi per riuscire a ricucire questo strappo e ricostruire una cultura che sia davvero per tutte e per tutti. Da qui quindi l'accento sulle relazioni e di una politica in cui si fa relazione incentrata sulla, sul concetto di esperienza, quindi una pratica politica, appunto, pratica politica che significa appunto essere presenti nei discorsi, dare delle risposte, inventare delle nuove soluzioni, come dicono appunto nell'articolo, per rispondere alle nuove forme di neoliberismo. Che significa allora tutto questo? Significa da un lato saper cogliere i nessi fra discorsi e realtà, fra pratica e teoria, ci viene da dire, fra collettivo e individuale, pubblico e privato, per usare termini e i discorsi a essi connessi, a noi noti ed ancora attualissimi. Significa quindi pensare al corpo come elemento su cui e da cui partono le nostre riflessioni e a cui approdano anche le nostre riflessioni. Secondo appunto quanto detto, quindi, risposte efficaci nel proprio agire politico non vanno quindi nella direzione della rivendicazione dei diritti, ma nel dare corpo alle nostre analisi, alle relazioni, appunto, nel cogliere le connessioni e le relazioni nei nostri discorsi per un comune incarnato, appunto, come recita appunto l'articolo. Non è poi forse vero che attraverso la percezione corporea noi impariamo il mondo, costruiamo le nostre esperienze. La dimensione corporea del senso ha assunto in diversi ambiti del sapere un ruolo centrale in tantissime riflessioni e si è assistito, diciamo, ad un'operazione che molte donne hanno svelato nelle loro riflessioni e pratiche politiche. L'esperienza del corpo è stata neutralizzata, resa maschile, ed è forse da qui, dai luoghi sacri del sapere, che è iniziata questa operazione di separazione fra corpo e mondo. Questa operazione di cancellazione della base corporea e sensibile della conoscenza, del sapere e dell'esperienza, o meglio, è iniziato, diciamo, l'opera di mascheramento della mascolinizzazione dell'esperienza e la cancellazione, appunto la sua cancellazione, quindi del corpo come elemento rilevante dall'esperienza stessa. Quello che ci viene suggerito, diciamo, dall'articolo e dalle autrici, e su cui tante femministe hanno giustamente ragionato, è proprio la centralità del corpo come elemento di conoscenza, come criterio di costruzione della realtà ed elemento su cui tutti i discorsi influiscono. Quindi appare ancora necessario svelare questi nessi tra esperienza corporea e politica, lavoro, economia, conoscenza, fra corpo e quelli che vengono intesi come i grandi temi dell'umanità. E allora, se l'esperienza corporea che produce sapere e conoscenza è stata mascolinizzata e considerata irrilevante ai fini del sapere, le donne, secondo le autrici dell'articolo, e il femminismo in generale, devono uscire dalla logica delle rivendicazioni dei diritti, che le riporta a uno stato di vittimismo e impedisce loro di divenire soggetti autonomi. O quantomeno, il femminismo non dovrebbe limitarsi ad agire sul piano del diritto. Bisogna allora che l'esperienza delle donne diventi davvero per tutte e tutti punto di riferimento da cui partire ed agire, abbandonando dunque i discorsi identitari per partire dall'esperienza e includere le differenze che questa necessariamente comporta. We'll be right back. Allora, adesso siamo giunti alla nostra rubrica musicale. La cantante che abbiamo ascoltato, le canzoni della cantante che abbiamo ascoltato oggi si chiama Ursula Rusk, che è appunto una cantante afroamericana molto famosa di jazz e di soul. Viene descritta da tanti come la donna di ferro dei diritti femminili e anche femministi, io aggiungerei. Ricordiamo che Ursula ha vinto per il suo impegno il premio Amnesty International Freedom Tour nel 2005. Abbiamo ascoltato diverse canzoni. La prima si intitola For Women e parla di un attentato di matrice razzista contro quattro bambine afroamericane avvenuto negli Stati Uniti nel 1963. In questo, diciamo, la cantante fa riferimento alla figura della donna afroamericana per eccellenza, che è la mamma, che di cui dice appunto, cito appunto le parole della canzone, timorosa insieme dubbiosa di Dio, portatrice di saggezza, di vita e di dolore, peccatrice, maestra, guerriera, a volte debole, combattente, solitaria. Abbiamo anche ascoltato un'altra canzone che si intitola Letter to a Sister Friend, in cui appunto l'autrice si rivolge alle donne chiamandole madri, amanti, sorelle e amiche. Ma sicuramente, indubbiamente, una delle canzoni forse più interessanti che vi abbiamo fatto ascoltare si intitola, e che vi faremo ascoltare adesso, si intitola What Women Must Do. Voglio appunto citarvi una strofa che fa così. Allora, finché non camminerai, correrai, lotterai a gambe levate al posto suo, non osare venire a parlare di quel che le donne devono fare. Va bene, adesso vi siamo venuti ai saluti. Se ci volete scrivere, potete farlo all'indirizzo email connettive@gmail.com oppure sul sito www.shegame.altervista.org. E adesso vi lasciamo alle canzoni di Ursula Rusker e anche alla replica di Sisterhood, dal momento che le ragazze non hanno avuto dei problemi tecnici, quindi vi manderanno la replica di una loro puntata. Grazie e buonasera. Don't you dare stand in front of me and tell me.